Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E direte, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non ci sono davvero più le mezze stagioni, visto che ogni tanto la puntata, la trasmissione, il format è un po' diverso. Ma questa, vi avverto dall'inizio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come succede ogni tanto, è una puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi una di quelle puntate monografiche, tutte incentrate su un argomento in particolare, con diversi ospiti che tra poco vi vado a presentare. Ma giusto per avere qualche indizio per comprendere quale sarà l'argomento di questa puntata, sentite un po'. E si nasce in famiglia, voluti o non voluti, nel migliore dei casi da genitori innamorati, e si forma un gruppo chiuso dove siamo più protetti. Col possesso un po' geloso degli amori e degli affetti. All'inizio tutti emozionati, sopraffatti dalla meraviglia, ci si abitua poco a poco a vivere in famiglia. Ecco, questo è l'argomento in realtà di famiglia. Già ci siamo occupati io e voi e gli ospiti di questo argomento della famiglia. Oggi vorrei puntarlo di più su lo strumento che accoglie i cambiamenti, i mutamenti della famiglia, nello stesso tempo forse li accelera e comunque li ratifica. È uno strumento legislativo che è appunto il diritto di famiglia. E per parlarne, ascoltatrici e ascoltatori, ho invitato in questa speciale puntata Anna Maria Bernardini De Pace. Buongiorno Roberta, grazie, che bella accoglienza. Che è qui in studio pronta a raccontarvi esattamente come funziona il diritto di famiglia, e con il suo libro che vi presenterò tra pochissimo, che è veramente un vademecum del diritto di famiglia. E ci faremo anche spiegare bene da Anna Maria Bernardini De Pace esattamente di cosa si tratta, che cos'è il diritto di famiglia. Sappiamo che regolamenta il funzionamento della famiglia da tanti anni, anche per quanto riguarda naturalmente il nostro paese e l'Italia, ma è qualcosa che si modifica perché si modificano i costumi, la cultura, ci sono mutamenti anche demografici, e quindi vediamo in che misura si adegua il diritto di famiglia e in quale misura invece accelera, diciamo, questi mutamenti. E poi c'è con noi in collegamento Chiara Saraceno. Cara Chiara, buongiorno. Che è uno dei maggiori esponenti della sociologia italiana, è stata docente per tanti anni all'Università di Torino, all'Università di Berlino. Poi c'è Aurelio Mancuso. Aurelio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco qua, temevo il peggio. Sapete quando si chiama e non risponde. Eccolo qui, Aurelio Mancuso, che è presidente di Equality Italia. Poi ci spiegherà esattamente di cosa si tratta. C'è Roberto Volpi. Benvenuto, buongiorno, Roberto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Che è statistico e demografo, e anche lui ha scritto diversi saggi, poi ne parleremo. E Gianna Schelotto, che ci raggiungerà tra pochissimo, nota psicoterapeuta. Io incomincerei proprio da te, Anna Maria Bernardini De Pace, perché partirei proprio dal tuo corposo volume che abbiamo qua. Sentiamo il rumore? Una roba pazzesca. È un volume che poi dopo si dividerà man mano in vari volumetti, ma si intitola Dall'amore all'amore, il diritto di famiglia raccontato da Anna Maria Bernardini De Pace. Mi piace anche proprio il titolo, perché tu spieghi nel tuo libro che si passa dall'amore, quello istintivo, passionale, pulsionale dell'inizio, a un amore un po' più consolidato, anche proprio attraverso delle regole. Come attraverso la conoscenza. Io sono del parere che l'amore non possa durare se non c'è consapevolezza e del mutamento dei sentimenti, che possono anche diventare molto più grandi, molto più profondi e molto più solidi, come hai detto tu, ma anche consapevolezza del valore dei gesti che abbiamo ogni giorno, ogni momento e in prospettiva con i nostri familiari o con quelli che vorremmo che diventassero i nostri familiari. Con questo libro io volevo dare proprio questo, la conoscenza del valore della giuridicità di ogni gesto che facciamo. Non sapendo queste cose, spesso sbagliamo, si creano degli equivoci, litighiamo, soprattutto con una cultura molto americana che si è fatta largo nel nostro paese. Tutti parliamo di diritti e non sappiamo che quali sono i doveri, che cos'è la responsabilità, quali la potestà, ma anche in buona fede creiamo in questo modo tanti disastri, perché facendo valere il nostro diritto, tanto per cominciare, dovremmo sapere che il nostro diritto finisce dove comincia quello diritto degli dell'altro altri. E dove... Quindi se tu dovessi definire in modo molto chiaro, molto semplice, che cos'è il diritto di famiglia? Il diritto di famiglia è l'insieme delle regole che mettono ordine nella famiglia, che consentono a tutti di sapere quello che devono fare, quello che possono pretendere, quello che non devono fare. Però, come dicevo all'inizio, nell'introduzione, Anna Maria, in che modo, in che misura il diritto di famiglia registra quelli che sono i mutamenti sociali, culturali, demografici e in che modo invece li anticipa? È più difficile che li anticipi e che decida che bisogna comportarsi in un certo modo e poi la società si adegua. Come funziona? No, per esempio, per quanto riguarda la legge sull'affidamento condiviso, secondo me ha anticipato quella che è la posizione della società, perché è una legge che è stata, a mio parere, troppo intempestiva in una società in cui proprio la lotta per il bambino, soprattutto adesso quando c'è la separazione, i divorzi che sono in separazione, divorzi eccetera, e la lotta per il bambino, l'idea di dare questo ordine paradossale, andate d'accordo perché siete obbligati a essere alleati come genitori in quanto la potestà l'avete entrambi, non esiste più la patria potestà. Mi piace che tu lo dici a un certo punto del libro, dimenticatevi della patria potestà. Perché tutti parlano di patria potestà, dal 75 non esiste la più. La potestà genitoriale. Adesso è potestà genitoriale. Perché sancisce la parità tra i sessi. Che, ecco, durante la famiglia si esercita, durante la convivenza carina, allegra, affettuosa, si esercita insieme. In genere, quando ci si separa, prima del 2006 la potestà andava a uno solo dei due, all'affidatario esclusivo. Oggi invece entrambi devono continuare, quindi era paradossale, pensiamo 6 anni fa, questa legge è stata veramente devastante, ma a poco sto vedendo nell'applicazione le nuove generazioni, è molto più facile che si applichi, è molto più facile che si condivida, perché oggi i papà e le mamme sono diverse dai papà e dalle mamme di una volta, quindi in questo caso la legge ha anticipato. Non ha certo anticipato, ma ha dato secondo me un fortissimo segnale quando ha stabilito che ci deve essere la solidarietà morale e materiale tra donna e tra marito e moglie, maschio e femmina, genitore e genitrice, e ha messo alla base dei doveri matrimoniali la lealtà. Mentre una bella parola, bellissima, e poche persone lo sanno. Io mi sono resa conto adesso che appunto qualcuno legge il libro e mi dice eccetera, ma dice: ma davvero la lealtà è così? La lealtà e la solidarietà sono fondamentali. E dopo li approfondiamo, Anna Maria Berardini De Pace. Però volevo chiedere a Chiara Saraceno, che ha scritto di recente per Feltrinelli: coppie e famiglie non è una questione di natura. A proposito dei cambiamenti appunto della famiglia, del modello tradizionale. Che sta mutando, soprattutto c'è stata questa spinta tra metà degli anni 70 e la seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, ma insomma continua questa evoluzione, tant'è che forse adesso bisogna capire anche quali sono i criteri per identificare effettivamente quella che può essere considerata famiglia. Chiara, la tua è una provocazione, non è una questione di natura, vuol dire che è molto istituzionalizzata e quindi non è una cosa spontanea, perché fai anche una comparazione internazionale, diciamo, certo, no? Ma per riprendere quello che ha detto all'inizio Bernardine De Pace, è la norma che definisce di volta in volta che cosa è riconosciuto come famiglia e come no, e cosa no, e che cosa deve avvenire, non tanto nei comportamenti individuali, ma che cosa ci si deve aspettare. E quindi c'è continuamente una tensione nelle società, nel corso della storia, tra i soggetti che sviluppano le loro relazioni e chi ha l'autorità di definire che cosa è legittimo e che cosa no, che cosa di volta in volta è ricevibile, è riconoscibile e che cosa no. Non è nulla di scandaloso quello che io dico, è semmai più scandaloso dire che la famiglia è una cosa naturale, salvo poi scoprire che da un'epoca all'altra, da una società all'altra, ciò che viene messo dentro a questo contenitore, ciò che è riconosciuto come famiglia e famiglie adeguate, cambia, quindi non è scandaloso, cioè, essendo esseri umani, continuamente anche modifichiamo la realtà in cui viviamo. Oggi siamo in una delle epoche in cui questo sta avvenendo più esplicitamente, ma i movimenti, come dire, i mutamenti hanno lunghe, come dire, periodi classici e poi emergono più alla visibilità, fanno massa, e quindi oggi siamo in un periodo in cui gli individui, le persone che stanno in relazione tra di loro, provano a dire, a chiedere riconoscimento anche di rapporti diversi, ma anche gli stessi rapporti tradizionali sono mutati, lo diceva anche prima Bernardino De Pace, voglio dire, quando mia nonna si è sposata, ciò che ci si aspettava alla fine dell'Ottocento, anzi a metà dell'Ottocento, ciò che ci si aspettava dal matrimonio era ben diverso, diciamo, da quello adesso che ci si aspetta oggi. Chiara, vorrei chiedere a Roberto Volpi se è d'accordo, che Roberto Volpi, abbiamo detto statistico, demografo, ha scritto qualche anno fa, c'ero qui, La fine della famiglia, mi sembra molto pessimista e mi sembra che la pensi un po' diversamente, e recentemente Il sesso spuntato, il crepuscolo della rivoluzione sessuale in Occidente. È d'accordo Roberto Volpi che non è una questione di natura la famiglia? Certo, no, sono assolutamente d'accordo. Ah. La famiglia non è una questione di natura, si evolve con la storia, con le epoche, con gli avvenimenti, niente è fermo. Poi si può dire che, come dire, si è affermato un modello di famiglia piuttosto che un altro. E il modello di famiglia che si è affermato negli ultimi secoli è un modello certamente, come dire, più confacente alla società, vorrei dire. Perché si è armonizzato, insomma. Pensiamo alla questione dei figli. La questione dei figli implica la riproduzione sessuale. E ovviamente quindi una coppia eterosessuale è decisamente più congruente alla questione dei figli rispetto a una coppia non eterosessuale, ecco, quindi c'è un modello di famiglia che comunque sia diventa sempre è funzionale alla sua epoca, e non a caso il modello di famiglia che si è affermato è anche durato molto e ancora sta durando, perché è sostanzialmente funzionale, la coppia con i figli è sostanzialmente funzionale alla società che è stata e anche alla società di oggi, ma certamente però si affacciano anche forme diverse, nuove forme di famiglia. Questo non deve assolutamente scandalizzare, bisogna prenderne atto e vedere che cosa apportano e che cosa non apportano. Questo però non implica affatto un giudizio, come dire, statico. In che nel dire era festa e andenti in campagna a mangiare, che la famiglia modesta la va in treno per minga stacca. Ma in della nostra famiglia che il decoro della nobiltà, e con la mamma e la figlia in auto per un viaggiare. La mamma è una, col papà è due, la nanna è tre, col cagà è quattro, la vecchia torpedo s'avanza, la famiglia Brambilla in vacanza. E rieccoci qui con la nostra famiglia Brambilla, che è cambiata nel corso degli anni, dei decenni. Noi parliamo soprattutto naturalmente per quanto riguarda la nostra società italiana, ci possiamo un po' più allargare a quella occidentale, ma già ci sono delle differenze. Sempre Roberta Giordano con voi in questa puntata speciale monografica di Non ci sono più le mezze stagioni, e gli ospiti che vi presentavo all'inizio sono Anna Maria Bernardini De Pace, che è qui presente in studio, Chiara Saraceno, Aurelio Mancuso, Roberto Volpi, Gianna Schelotto, e abbiamo già messo sul braciere diversi argomenti, e volevo chiedere a Aurelio Mancuso, tu sei presidente di Equality Italia, no Aurelio? Sì, giusto. Ecco, che cos'è esattamente? Fa pensare a qualcosa di equo questo Equality, no? Sì, Equality Italia si occupa di tutti i diritti discriminati e previsti dal Trattato di Lisbona, ovvero i diritti negati per le persone omosessuali, per le donne, per i migranti, per gli anziani, i disabili, i bambini e via dicendo. È una rete che intreccia esperienze personali con esperienze di reti e gruppi e cerca di fare un lavoro di congiunzione tra queste aspirazioni di riscatto, che nel nostro paese tra l'altro sono diverse e a differenza dei paesi europei mancano ancora molte leggi di riconoscimento di diritti civili. Che quindi sono rimasti al di fuori del diritto di famiglia per il momento? Alcuni sì, faccio l'esempio delle famiglie omosessuali, ma piuttosto come i diritti dei figli naturali. Mi pare, scusami se ti interrompo, Aurelio Mancuso, Anna Maria Bernardini De Pace, che abbastanza di recente ci sia stata una parificazione più o meno definitiva tra figli naturali e figli legittimi. No? Continuano ad annunciarla e non c'è mai. C'è una proposta di legge ferma, allora, come questa quella cosa sul divorzio breve, sono tutte ferme, perché la famiglia in realtà allo Stato non interessa molto, anche se tutti si riempiono la bocca di questa famiglia. Certo, la famiglia, al momento, no? Pensa al Tribunale della Famiglia, da quanti anni che lo devono fare, dal 2004 che dicono, si parla, ancora non è stato fatto. Questo dei figli legittimi e di quelli naturali è veramente ingiusto. Spieghiamo la differenza per chi non la sapesse. No? Allora, I figli naturali sono quelli che nascono al di fuori del matrimonio. Al di fuori del matrimonio, che secondo la riforma del diritto diritto di famiglia del 1975 sarebbero dovuto essere stati parificati. In realtà non lo sono, perché per esempio i figli naturali coi genitori non acquistano nessun grado di, cioè acquistano grado di parentela solo coi genitori, ma non con i parenti dei genitori, gli zii, eccetera, non ci sono. Assurdo, no? Infatti c'è il sistema della legittimazione, per cui si può fare un ricorso al tribunale per i minori e ciascuno, anche se il figlio è riconosciuto, proprio se il figlio è riconosciuto, può chiedere la legittimazione e quindi l'acquisizione di parentela, che poi conta anche nei problemi di fisco, di successioni, tante cose. Poi per esempio poniamo che ci siano alla morte di un padre figli naturali e figli legittimi. I figli naturali possono essere costretti a subire il cosiddetto diritto di commutazione da parte dei figli legittimi. Cioè i figli legittimi dicono: è vero che abbiamo tutti diritto ad avere le stesse quote, però questa casa noi figli legittimi ce la vogliamo dividere tra noi figli legittimi. A te ti diamo la quota di valore, quindi in questa casa, che magari è la casa del padre, dei nonni, eccetera, tu non ci puoi stare, non ci puoi abitare. Poi c'è tutto un sistema, si può fare opposizione al tribunale, ma insomma devono combattere sempre questi figli naturali. Non ci sono degli automatismi, delle garanzie per il momento. Finché bisogna combattere vuol dire che non c'è un diritto. Gianna Schelotto, parlando di coppie, e tu hai scritto tanti saggi, no? Sull'amore di coppia, su anche i conflitti di coppia. Come Anna Maria De Pace nel suo libro ha anche scritto l'evoluzione, no, del matrimonio da un punto di vista giuridico, tu come lo vedi da un punto di vista invece psicologico e di costume? Dicevo che dal punto di vista psicologico c'è proprio questa differenza, per cui se da una parte c'è l'apertura verso tutto il nuovo che la nostra società porta dentro, però quando la coppia entra in crisi è come se riemergessero le vecchie cose e quindi i vecchi principi, ci si appigliasse ai vecchi modi di essere e di pensare alla coppia. Cioè? Allora la coppia fino a un certo punto, finché nella coppia va tutto bene, la coppia è aperta, moderna, ma quando entra in crisi allora o l'uno o l'altro dei due coniugi si aggrappa alle cose tradizionali e rivendica cose che non sono certamente più rivendicabili. Facci qualche esempio, Gian, stavo cercando di capire. Dimenticano la parità. Dimenticano la parità. Dimenticano la parità. Quindi cosa c'è? La sopraffazione maschile, diciamo? Dipende. Esattamente, esattamente. Voglio dire, quello dei due che viene lasciato, quello dei due che non vuole assolutamente la rottura del matrimonio, diventa un uomo anni 50 e rivendica tutta una serie di diritti o assume tutta una serie di atteggiamenti aggressivi fino a quelli poi più estremi. Che sappiamo che succedono ogni due giorni in Italia, una donna uccisa perché ha lasciato un marito. Come se ci fosse una sorta di regressione. va tutto bene, siamo tutti moderni finché non siamo colpiti nei sentimenti, finché non ci sentiamo traditi, abbandonati. A quel punto si regredisce, in particolare gli uomini regrediscono fino a diventare aggressivi, violenti, fino ad estreme conseguenze. Quindi Anna Maria Benedetti De Pace, tanti anni di evoluzione nel diritto di famiglia, le modifiche, le riforme, cioè, ma scusa, tra l'altro è rimasto fermo il 1975 o negli anni sono state delle modifiche? No, delle riforme, certo, anche ecco. Il divorzio poi nell'87 è stato modificato, poi oltre alle leggi molto il nostro diritto la fa la giurisprudenza, perché le leggi, grazie a tutti questi avvocati che ci sono in Italia, che forse sono troppi, vengono interpretate in modo diverso da ciascuno e dall'altro, quindi la Cassazione spesso ci dice no, guarda, questa legge va interpretata così, oppure questa legge che era giusto interpretarla così fino a una decina d'anni fa, oggi che l'evoluzione del costume ha inciso in un certo modo nella famiglia eccetera, può essere interpretata così. Questo è uno dei motivi per i quali ho deciso di fare quel libro, perché si capisca anche ogni volta che scrivo sul giornale la Cassazione ha deciso, che cosa voglia dire questo fatto della Cassazione, perché noi non siamo in un diritto anglo-americano per cui è soltanto la decisione che conta. Mi viene in mente, a proposito di Cassazione, ogni poco no, escono queste sentenze, abbastanza di recente la Cassazione aveva deciso che una moglie meritava l'addebito della separazione, quindi poi del divorzio, immagino, perché nata la prima bambina, la prima figlia, non aveva più voglia insomma di avere rapporti sessuali col marito. Ma qui come si stabilisce, cioè, quali siano doveri, diritti in questo caso, se uno non vuole, se uno... cosa dice il diritto di famiglia? Nel momento in cui ci si sposa e si crea questa solidarietà morale e materiale tra moglie e marito, nella solidarietà morale e materiale sono compresi anche i rapporti sessuali, quindi l'espressione e l'accoglienza dei reciproci corpi. Nel momento in cui improvvisamente uno dei due rifiuta il rapporto sessuale, rifiuta tutta una serie di cose dell'altro, no? Dell'altro coniuge, quindi c'è un atteggiamento irrispettoso, egoista, allo stesso modo come se rifiuta i soldi, l'assistenza in un momento di malattia, la solidarietà per determinati problemi eccetera, anche il rapporto sessuale ha questo pesante significato se rifiutato. Da non scambiare con quindi il diritto di sopraffazione, ha diritto di separarsi. Addirittura c'è la violazione, c'è la violenza sessuale anche nell'ambito della coppia, per cui se l'altro non vuole tu non puoi costringerlo al rapporto sessuale, però non puoi neanche dire no, perché nel, chiamiamolo contratto, non è proprio un contratto, ma nel contratto matrimoniale c'è anche la dedizione dei corpi e c'è una sorta di salute sessuale, di salute psicologica che interviene moltissimo, e quindi il rifiuto costante è disprezzo, è ingiuria, è mancanza di solidarietà e quindi è motivo di addebito. Poi come si faccia a dimostrare non lo so, però sai che hanno fantasia, creatività, trovano sempre il sistema, si scrivono mail dicendo ma come tu da 2 mesi e mezzo non vuoi, quella risponde sì è vero perché qui, tu ecco così la si prova, è costituita la prova dall'avvocato. Chiara Saraceno, nel tuo libro dicevo fai anche tutta una comparazione attraverso diverse culture, no? Spiegando proprio per questo che quindi la famiglia non è un'istituzione naturale, anche perché cambia non solo attraverso i periodi storici ma anche attraverso le differenti latitudini, e l'immigrazione comporta a parte arricchimento ma anche un'ulteriore complessità, no? Perché evidenzia quanto siano diverse le culture, forse poi si dovrà adattare anche il diritto di famiglia man mano. Sì, Chiara? Quando noi parliamo dell'immigrazione subito pensiamo a quelli diversi da noi, musulmani eccetera, ma queste, cioè quelli che vengono da culture religiose eccetera con fortemente diverse, ma la diversità riguarda anche il livello intraeuropeo, intra-UE, cioè le obbligazioni che comporta un matrimonio, il modo in cui un matrimonio si può scegliere e la lunghezza delle responsabilità dei genitori nei confronti dei figli o dei figli nei confronti dei genitori, sono normate molto diversamente da un paese all'altro, e a queste norme diverse corrispondono anche modelli culturali differenti. Chiunque si sposi, che so, un italiano sposato con un norvegese o con un tedesco eccetera, subito si accorge di queste differenze nei rapporti di coppia, nei modelli educativi e così via. Che è il bello, voglio dire, però questo vuol dire... Complica tutto, insomma. Che appunto noi, anche rimanendo dentro le convenzioni più tradizionali dal punto di vista dei nomi delle cose, delle relazioni, in realtà siamo confrontati come dalle diversità. Quanto più poi si allargano i confini e quindi i gradi di differenze si ampliano, tanto più questo diventa complicato, al punto che, e qui Bernardino De Pace può aiutarmi, ma anche Gianna Schellotto, qua ci sono alcuni matrimoni in cui davvero le due persone, capita anche tra italiani, ma certamente due persone sono entrate in un matrimonio pensando cose diversissime rispetto a quello che ci si aspettava, e magari, come dire, obnubilati dal fatto che ci si voleva la bene, passione, che l'attrazione, che si poteva superare quella cosa lì, ma poi nel momento duro, quando entrano in mezzo le parentele oppure c'è un conflitto, ciascuno ritorna, per così dire, alle proprie origini. Ad aggrapparsi, così dice, alle proprie origini, al proprio modo di ecco, pensare alla e propria poi cultura. Anche qui il diritto entra, perché per esempio in casi di separazioni il diritto internazionale dice molto poco, per cui ciascun paese decide diversamente rispetto all'affidamento dei figli. Mi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia, d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. E speriamo anche non ci sono più le mezze stagioni di questa puntata speciale monografica, sempre Roberta Giordano con voi. Parliamo di famiglia e diritto di famiglia, di quanto sia complesso adeguare il diritto anche in questo senso, insomma, a rincorrere le evoluzioni, i mutamenti che la famiglia, il modello tradizionale di famiglia conosce e subisce, non so come chiamarla, appunto, se evoluzione o involuzione a seconda dei punti di vista. Secondo me è anche un'evoluzione. Anna Maria Bernardini De Pace, che è qui presente, la pensa un po' diversamente. Abbiamo sentito il suo parere su vari aspetti, c'è anche Chiara Saraceno, Aurelio Mancuso, Roberto Volpi e Gianna Schellotto. Gli aspetti poi che riguardano la famiglia e la sua regolamentazione sono moltissimi. Cioè, appunto, abbiamo parlato del fatto che dal 75 era stata garantita la parità tra i sessi, anche se diceva Gianna Schellotto poi, dopo, quando le coppie vanno in crisi, questa parità salta e c'è un po' di atteggiamento di sopraffazione. C'è la potestà genitoriale, che ci spiegava prima Bernardini De Pace, diritti e doveri della coppia, figli naturali, figli illegittimi, il divorzio. Sapete che separazione e divorzio in Italia sono veramente in crescita costante, insomma. Forse sono, addirittura si potrebbe dire, quasi una minoranza le famiglie tradizionali con figli, mi sembrava di leggere il 33%, quindi pensate a quanto si è cambiati dagli anni 70 ad oggi. Poi c'è l'affidamento condiviso dei figli, la convivenza, unioni civili, unioni gay, patti prematrimoniali, tra l'altro, poi ne parleremo. Ma Roberto Volpi, leggevo nell'ultimo libro, nell'ultimo saggio, addirittura scrive che non è fantascienza ipotizzare, ed è un altro argomento questo, per esempio quello della fecondazione assistita, non è fantascienza ipotizzare che la riproduzione senza il sesso prenderà sempre più il posto di quella, diciamo così, diretta tra donna e uomo in famiglia. E che così abbiamo queste prospettive davanti, Volpi? Beh, ovviamente questo è auspicabile che se avviene avvenga con una grande gradualità, e siamo del resto in quest'ambito di una gradualità molto lenta, e tuttavia all'interno di questa gradualità la linea di tendenza mi sembra già oggi abbastanza marcata. Diciamo che le nascite da riproduzione assistita o procreazione assistita oggi in Italia sono attorno al 2-3% del totale delle nascite, quindi è, come dire, poca cosa ancora. Ma la linea di tendenza, l'aumento è sempre costante nel tempo, e una previsione a più lunga gettata non ci fa ritenere, che le 20-30 mila nascite almeno che vengono dalla riproduzione medicalmente assistita siano raggiungibili nell'arco di una decina d'anni o o una dozzina di anni. Quindi siamo nell'ordine di cifre ormai importanti, ripeto, crescono lentamente, ma crescono sempre. Il punto centrale che mi preme sottolineare, che del resto sottolineo anche nel mio libro, è che tuttavia queste nascite non si aggiungono a quelle della riproduzione normale tramite il sesso tra persone di genere diverso. Diciamo, Roberto Volpi, che lei si incentra soprattutto, essendo demografo e statistico, sulla denatalità, che in modo molto specifico riguarda l'Italia e quindi è anche un grosso motivo di trasformazione del modello di famiglia, dell'idea di famiglia, no? In questo senso si concentra su questo tema. Il modello che oggi prevalente, ormai prevalente da diversi anni, tuttora prevalente e io credo che resterà prevalente a lungo in Italia, è quello della coppia più un figlio, tra, diciamo così, tra le coppie che hanno figli, ormai il 50 e qualcosa forse di più per cento di queste coppie ha un solo figlio. Chiaramente questo modifica molto tutte le questioni che riguardano non soltanto la famiglia, ma il rapporto particolarissimo tra genitori e figli. Una delle cause senz'altro, no, dell'eccesso di protezione dei figli di cui parliamo tutt'oggi, che in qualche modo frena la capacità dei giovani di utilizzare con responsabilità la propria libertà, una di queste cause è senz'altro il fatto che ci sono molti pochi figli e che il 50% appunto delle famiglie con figli ha un solo figlio, e quindi c'è una attenzione formidabile attorno a questo figlio, a questo unico figlio, che non è soltanto dei genitori ma è anche dei nonni eccetera eccetera, che rischia di soffocarne in qualche modo lo sviluppo. Quindi si è venuto a creare, si focalizzano eccessive attenzioni insomma su questo, io quando sono figli unici. E poi non c'è la competizione tra i fratelli, che è una forza tonica sanissima anche per la società. Ne so qualcosa anche per la società, parte della famiglia, gli individui. Aurelio Mancuso, a proposito di diritti che dicevamo prima, che per il momento ancora non sono stati completamente integrati dentro il diritto di famiglia, naturalmente si parla anche, visto che è un argomento sempre più attuale anche nella politica, nel senso che è attuale ma rimane sempre lì sospeso, se lo rimpallano, quello delle coppie gay, delle unioni civili e anche dei matrimoni gay, tra l'altro, no? Ma io direi che intanto c'è bisogno di discutere in questo paese di una riforma del diritto di famiglia complessivo e di una riforma di alcune leggi che impediscono una reale libertà sia delle donne sia delle coppie sposate o non sposate. Per esempio mi riferisco alla legge 40. La fecondazione assistita. Sì, che impedisce per esempio in questo paese di accedere a cure che sono previste in altri paesi europei, e fanno in modo che le persone vadano a fare i viaggi della speranza. Ma per quanto riguarda il diritto di famiglia, certo c'è la questione delle coppie omosessuali, matrimonio, unioni civili, ma questo tema riguarda anche le coppie eterosessuali. Perché non dare almeno un minimo di normativa alle coppie di fatto eterosessuali che non vogliono accedere al matrimonio? E con questo cosa significa introdurre il divorzio breve, che finalmente libererebbe i tribunali da contenziosi enormi che durano anni e anni? Questo significa fare un discorso, secondo me, di tipo globale. Non possiamo noi come paese rimanere al medioevo dei diritti, e l'Italia è l'unico paese fondatore d'Europa che su tutte queste questioni non ha legiferato ormai da molti anni. Poi chiediamo conto a Anna Maria Bernardini De Pace, ma Gianna Schelotto, ti volevo chiedere, forse questa mancanza di diritti, al di là di essere consapevoli dei propri doveri, ha anche una ricaduta sociale, forse anche economica, nel senso che uno soffrendo di certe mancanze di diritti, eccetera, poi va anche dallo psicoterapeuta, dallo psicologo, paga anche dei soldi, ma anche, diciamo, è scontento, e chi è scontento, l'infelicità in genere non è che fa crescere in modo costruttivo la società, no? Quali sono i problemi, Gianna, che ti vengono a riferire le coppie, che siano etero, omo, e che riguardano proprio lo stare insieme e i mutamenti anche delle esigenze, no? Degli individui, delle relazioni? Il rapporto di coppia nascono dal fatto che spesso non si accettano i cambiamenti. Per esempio, le donne sono completamente diverse da quelle degli anni 50-60. Le donne sono cambiate moltissimo e non sempre in meglio, non è detto che siano sempre migliorate, e quindi in questa difficoltà, cioè la grande libertà delle quali le donne vogliono godere oggi e l'incapacità, anche la fatica fisica e psicologica di conciliare questo bisogno di libertà, il lavoro, la famiglia, le esigenze e le aspettative degli altri, creano grandi scompensi all'interno della coppia, al di là proprio della relazione, al di là dei rapporti amorosi, ma proprio la fatica che si fa per cercare di adattare il vecchio con il nuovo e non sentirsi in colpa se si è troppo avanti. Senti, Anna Maria Bernini di Pace, prima della prossima pausa, fra due minuti, come si adatta il diritto di famiglia, come adatta il vecchio al nuovo? Perché ha anche il dovere, a proposito di diritti e di doveri, no? Il diritto di famiglia, insomma, di armonizzare. Certo, no? Cambia. Se tu pensi che una volta la donna magari era importante in casa, la regina della casa, la regina del focolare, no? Però era una visione un po' ipocrita, forse, o no? Non lo so, però si dice questo. Oggi il lavoro casalingo ha lo stesso identico valore giuridico, ha la stessa dignità del valore produttivo di reddito. Su questa mancanza di conoscenza, perché le donne non le sanno, si creano ancora dei rapporti di sopraffazione molto verticalizzati. Perché l'uomo dice: tu stai a casa e ti occupi di figli, io vado fuori e guadagno, però poi l'uomo ha il potere del denaro che distribuisce secondo quello che lui pensa e secondo come si faceva una volta, non con i principi che adesso il codice civile dice l'obbligo di solidarietà morale e materiale. La donna sta a casa, l'uomo lavora, si vive con tutto quello che l'uomo guadagna, si svolge il tenore di vita che quel guadagno consente. Non ti puoi permettere di fare il tirchio, perché sarà colpevole della separazione, della frattura matrimoniale, la donna che rifiuta i rapporti sessuali, ma anche il marito tirchio. Perché viola il principio di solidarietà. Anche se vogliamo dire a Anna Maria che ormai poche donne scelgono di fare le casalinghe se non sono costrette, diciamo, dalla precarietà, dalla disoccupazione, e che non so quanto sia consigliabile, perché a un certo punto, quando uno se si stufa, lo decidono, devono scegliere la comunione dei beni, non si devono lamentare. Se uno sta, per quello che è importante, anche i patti prematrimoniali in Italia si possono fare, come secondo me si potrebbe già fare senza cambiare la legge il matrimonio omosessuale, però non lo si vuole fare. Allo stesso modo i patti prematrimoniali non si possono fare perché il matrimonio è un sacramento. Allora, siccome è un sacramento, non si può parlare di denaro, non si può parlare di prima, però c'è anche il matrimonio civile, siamo in uno stato laico, non possiamo vedere il matrimonio solo ed esclusivamente come il matrimonio concordatario. Matrimonio religioso, vediamolo anche come matrimonio civile, che dovrebbe consentire anche il divorzio immediato senza separazione, che invece è un cuscinetto proprio per ammorbidire le coscienze tra il momento della separazione e il momento in cui il vincolo coniugale si trancia. Che tu dici che è inutile aspettare. Quanto tempo si aspetta oggi? Tre anni sulla carta, ma poi in realtà con i tempi della giustizia, i tempi degli avvocati, i tempi di opposizione di un coniuge o l'altro, eccetera, sì, ci sono dei divorzi che durano 7-8 anni. Senti, ma cos'è la politica che si deve occupare di questo, per esempio di introdurre il diritto breve anche nel diritto di famiglia? Chi sono i legislatori? Dovrebbe essere la politica, ma tu vedi che pasticci che fanno in Parlamento, che accordi malandrini e clandestini. Fa famiglia Adams, anche quella è una famiglia, no? Possiamo dire a suo modo, diciamo piuttosto originale, di famiglia, di diritto di famiglia stiamo parlando in questo scorcio di chiusura della puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, sempre Roberta Giordano con voi. Vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni per i vostri commenti anche sul diritto di famiglia. E abbiamo parlato con i tanti ospiti veramente di tanti argomenti. Volevo chiedere, Chiara Saraceno, dicevo, nel tuo libro hai fatto anche questa comparazione transnazionale, no? Il tuo libro che si intitola Coppie e famiglie non è una questione di natura. E volevo chiederti brevemente qual è il tipo di diritto di famiglia e quindi di società, di nazione in cui ti sembra che siano un po' più armonizzate le esigenze odierne, diciamo contemporanee, delle persone e la legislazione in merito, e anche come ti sembra che stia andando l'Italia, verso dove sta andando? Piuttosto impegnativa come domanda. Posso rispondere alla seconda parte della domanda dicendo che l'Italia sembra che non stia andando da nessuna parte. Tanto per cambiare. È sempre ferma, cioè si ricordava prima che dall'inizio della legislatura, anzi ancora dalla legislatura precedente, giace il progetto di legge per la totale equiparazione dei figli naturali e legittimi, e nonostante sia una proposta bipartisan, tutti sono d'accordo, non costa una lira, ma sempre ferma è. Idem per il divorzio breve, che forse è un po' meno bipartisan, ma comunque su cui c'è un fortissimo consenso a livello della popolazione. Non parliamo delle coppie di fatto etero e omosessuali, e anche qui io ricordo che la società italiana è molto più avanti dei suoi politici, perché l'indagine che è stata fatta dall'Istat, ad esempio, su il riconoscimento delle coppie omosessuali, ha visto una maggioranza di italiani che, anche quando dichiarano un disagio personale nei confronti dell'omosessualità, dichiarano che è giusto, legittimo che venga riconosciuta una qualche forma di istituto giuridico a questi rapporti di coppie omosessuali, in quanto siano fondati sull'amore, esattamente come i rapporti eterosessuali che eventualmente finiscono in un matrimonio. Quindi la seconda risposta, parte della domanda, ahimè, siamo sempre fermi. È un po' difficile scegliere, perché non è che uno può più scegliere fiore da fiore, però mi sembra che tutti i paesi del centro nord Europa, ma anche Olanda, la Spagna, Danimarca, la Spagna è il paese più simile a noi culturalmente, per influenza della religione cattolica, ha fatto dei passi avanti enormi. È possibile sia agli eterosessuali che agli omosessuali scegliere se fare una coppia di fatto, cioè una coppia, un'unione civile, o invece sposarsi. Ed è possibile agli omosessuali anche adottare. È più controversa la questione dell'accesso, anche, e la Francia sta discutendo della stessa cosa, la Francia che ha già i Pax sta discutendo della stessa cosa, del matrimoni e adozioni. La controversia è se gli omosessuali debba essere aperta anche l'accesso alla fecondazione assistita oppure no, ma l'adozione è nel progetto di legge. L'accesso alla fecondazione assistita è un po' più complesso, in particolare devo dire per gli omosessuali maschi, perché le femmine si vogliono fare i figli, li fanno, fanno quello che gli pare fondamentalmente. Il problema però qui è il fatto che la compagna possa riconoscere come proprio, cioè possa non solo dichiarare la propria corresponsabilità, ma vedere che questa le venga riconosciuta. Venga riconosciuta anche nel tempo. Il paradosso è che nella misura in cui la legge non lo riconosce, si costruisce un orfano, ma non perché questo poverino non c'ha non c'è entrambi i genitori, ma perché la legge non riconosce che l'altro genitore c'è, con effetti negativi nel caso in cui qualche cosa vada male nella coppia, uno dei due muoia o così via. È chiaro, ci si può immaginare. Volevo chiedere a Roberto Volpi, quando ha scritto La fine della famiglia, cioè la vede quindi in senso negativo questa che noi abbiamo chiamato almeno in parte evoluzione, mutamento, sinteticamente, la vede come un tramonto di qualcosa che non c'è più, in modo nostalgico, quindi negativo? No, non necessariamente. Vedo la crisi di un modello di famiglia. Un modello di famiglia che, non dimentichiamo, l'ha tenuto. È stato importante, ha contato molto. Per esempio, ha contato molto per l'Italia della ricostruzione. Non ci fosse stato quel modello di famiglia, probabilmente l'Italia della ricostruzione avrebbe ricostruito molto peggio e molto più lentamente. Quello che voglio dire è che quel modello di famiglia, che è sostanzialmente il modello, ripeto, che ha tenuto per tanto tempo, non è la famiglia arcaica, famiglia classica, quella di fatto dalla coppia, la coppia più i figli, attenzione, io non parlo di matrimonio, cioè coppia più i figli, quel modello di famiglia come dire, sta perdendo colpi. E annoto un dato di fatto senza, come dire, precludere quel che verrà, come dire, bollare per negativo gli sviluppi che saranno, assolutamente, però non si può non annotare che quel modello di famiglia sta prendendo colpi, e con questo modello di famiglia altre cose entrano in crisi. Attenzione, perché io credo che anche i rapporti interni alla società, i rapporti che prima erano intessuti dai rapporti stessi tra le famiglie, si vadano deteriorando, anche per questo motivo, non assolutamente. Annuiva Anna Maria Bernardini De Pace. Sì, ma è proprio così, perché da un modello statico c'è stato un movimento assolutamente dinamico, c'è stata una mutazione genetica della famiglia. Oggi non c'è più una famiglia numerosa, ma ci sono notevoli diverse figure di genitori singoli. Il genitore appunto singolo perché è separato, il genitore anziano, il genitore assente, per cui è quello che non c'è e che la cui mancanza per il figlio è drammatica. Che elenchi tu nel tuo libro, no? Dall'amore all'amore. Ti spiego, perché poi c'è anche il genitore in più, perché è il genitore acquisito di fatto della famiglia. Poi ci sono una serie di genitori patologici. Alcuni ci mettono anche quello anziano, perché certi tribunali considerano il genitore anziano patologico, considerata. Però c'è il genitore violento, c'è il genitore che influenza negativamente il figlio verso l'altro, c'è il genitore che opprime il figlio proprio perché è figlio unico, come dicevamo prima. È molto cambiata la famiglia, se pensiamo appunto anche al genitore fantasma. Quando parliamo della fecondazione assistita eterologa, c'è un genitore fantasma, oppure una madre in America che ha dato l'utero in affitto a una coppia che poi viene in Italia e c'è il figlio, c'è questo genitore fantasma. Quindi la famiglia è cambiata. Bisogna molto conoscerla per sapere anche come muoversi. Ecco, a proposito di sapere come muoversi, Gianna Schilotto, sinteticamente, siamo un po' verso la chiusura, dal tuo punto di vista, dalle cose che ti raccontano, diciamo, i tuoi pazienti, quale sarebbe una priorità che dovrebbe essere compresa nel diritto di famiglia, che sono cose che rimangono fuori, insomma, dal osservatorio privilegiato che hai tu? Questa è una bella domanda, perché è difficile indicare delle priorità, nel senso che è vero, il modello di famiglia al quale siamo abituati è chiaramente in crisi, perché nel frattempo ci sono altri modelli di famiglia rispetto ai quali forse non siamo psicologicamente attrezzati per valutarli e verificarli tutti, ma ce ne sono tanti e bisogna avere la capacità di muoversi all'interno di questi modelli senza troppe ansie, senza drammatizzare e soprattutto senza giudicare preventivamente. Per esempio, una mutazione forte nella famiglia è proprio quella del figlio unico. Il figlio unico non è un problema psicologico soltanto perché appunto è un bambino solo, eccetera, ma perché, non essendoci altri fratelli in famiglia, non si crea quella contrapposizione tra il mondo adulto e il mondo non adulto, che faceva sì che i bambini non fossero schiacciati dall'adultità e che insieme crescessero e elaborassero modelli indipendenti, anche modelli di autonomia rispetto al mondo adulto. Adesso c'è un bambino tiranno che ha intorno, come si diceva prima, i genitori, gli zii, i nonni, eccetera, che diventa tiranno, che è soffocato e che non riesce mai a diventare veramente autonomo. Poi quando sono più grandi c'è qualcuno che li chiama bambuccioni. Ci sono poi tutti i problemi. Volevo chiedere a Aurelio Mancuso, prima di passare la parola conclusiva a Anna Maria Bernardini De Pace. Aurelio, se tu dovessi invece, tu presidente di Equality Italia, dare delle priorità, già dicevi prima il divorzio breve, le coppie gay, no? Perché sia integrato il prima possibile nel diritto di famiglia, in una possibile riforma. Vediamo se c'è. Sì, io però vorrei dire questo, che non va bene dire che la famiglia è in crisi. La famiglia è cambiata e continua a cambiare. E questo è, diciamo, dal punto di vista anche di come poi intervenire sul diritto di famiglia, è molto importante come atteggiamento psicologico, perché se no tentiamo sempre di difendere alcune cose che magari sono indifendibili. A me pare invece che quello che bisogna fare, che la politica dovrebbe fare, è mettere mano a tutta questa partita, rendendosi conto dei fatti concreti che esistono. Ha ragione la Bernardino De Pace, qui ci sono diversissimi tipi di genitori, di famiglie, di tipologie anche di filiazione, via dicendo. Cioè, quello che fanno le società moderne, le democrazie mature, è proprio questo, è quello di fotografare la realtà, capire come si deve intervenire, naturalmente anche facendo delle scelte. Ecco, però... a questo proposito, Aurelio, scusa, per far chiudere Anna Maria Bernardini De Pace, visto che ha scritto questo libro Dall'amore all'amore, appunto il diritto di famiglia raccontato da lei, a che punto sia proprio una conclusione tua, insomma, su... Siamo, come abbiamo potuto sentire oggi, molto avanti rispetto a quello che la politica sa di noi. Per cui, secondo me, i politici, anziché stare a giocherellare o a lanciarsi insulti nelle sale del Parlamento o del governo, dovrebbero affacciarsi alle finestre del Parlamento e del governo e guardarci. Guardare un po' fuori, guardare come si muove la gente, che esigenze ha, sì, che aspettative ha, quello che vive quotidianamente, no? Concretamente. Quindi questo è l'auspicio, vogliamo chiudere con questo auspicio. Tu puoi fare qualcosa come avvocato? Beh, io intanto ci ho provato con questo libro. Ho un sito, dall'amorellamore.com, che è il primo family law, dicono quelli che si intendono, insomma, è il primo sito di diritto di famiglia in Italia. In America ce ne sono tanti. Come si chiama questo sito? Dall'amorellamore.com, senza apostrofi, tutto attaccato dall'amore all'amore per la gioia di tutti, senza apostrofi. Ed è un sito operativo, tutti possono dare le loro idee, ci possono essere discussioni, diamoci da fare, così magari da fare. Riusciamo, insomma, raccontiamoci a doppiare la politica, no, raccontiamoci a quelli che ci rappresentano, che non ci e conoscono, e a dire come siamo e di cosa abbiamo bisogno. Grazie Anna Maria Bernini De Pace, Gianna Schelotto, Chiara Saraceno, Aurelio Mancuso, Roberto Volpi, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti. Le prime tue certezze.